Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e qui con me c'è... Franco Schipari, ciao Ale! Ciao Franchi. Siamo nel 1980 perché tutti i venerdì, noi due, Franco, insieme, vi racconteremo un decennio fondamentale della nostra storia. Un decennio che va dalla strage di Ustica al crollo del muro di Berlino. Ma Franco, anche quello del Commodore 64, delle Timberland, del cubo di Rubik e del Game Boy. Il Walkman, Franco. Te lo ricordi il Walkman? Ma io sono rimasto il Walkman. Lo sapevo. Per me quando è uscito il CD, per me era già fantascienza pura. È stato uno shock per me. Mi Franco. Piacevano le cassette tanto. Tanto. Ma noi insomma vi racconteremo gli anni 80. E poi il 90. E poi forse, chissà, 2000. E poi il 3000, ma come dicevano i nomadi, ma noi non ci saremo. Chissà. Proprio così. Allora... Caro Franco, partiamo dal top. Chi c'è al numero uno della classifica nel 1980? La canzone numero uno in Italia del primo anno del nuovo decennio è... I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Kill the Radio Star, The Buggles, che the vuol Buggles. Dire che l'immagine ha ucciso. Però non star. Erano i Queen. Non ci sei neanche andata vicino. No, per me sono i Queen. Ma comunque guarda, questo pezzo l'hanno veramente rifatto tutti, Ale. Quindi comunque resta il fatto che ci ha ammazzato il video. Assolutamente sì, sai perché? Perché? Perché il prossimo anno, il 1981, nasce MTV in America. Quindi che vuol dire? Vuol dire che tu puoi fare tutta la musica che vuoi, però se non hai un video promozionale è inutile che fai l'LP, come si diceva allora, o il CD. Quindi le case discografiche cominciano a investire più in promozione che in produzione. Cioè per un disco spendono $100,000, per fare tre video 300,000. Però nonostante il video, Franco, noi resistiamo, siamo ancora qui. Grazie a Dio siamo alla radio. Che bella la radio, Alessandra. Che bella, Franco. Allora, nel 1980 al mondo siamo 4.434.682.000. Un milione di lira, Franco, nel 1980 varrebbe oggi circa... Te lo dico? La matematica sono fortissima. Sei forte, però non lo sai. 2.300 euro. L'età media delle donne che si sposano è di 24 anni, per gli uomini 27, e cresce l'età media del matrimonio. Ma anche la speranza di vita per i maschi è di 70,5 anni, per le donne 77,2. Ecco, hai capito? Cosa? Voi siete meno stressate. Beh, Franco, ecco, su questo possiamo aprire un lungo dibattito, non direi. 76,2. Quel 2 è molto importante. Assolutamente è molto sì. importante. Ma nel 1980, Franco, tu eri a New York. E che succede nel mondo della disco dopo le follie degli anni 70? Beh, guarda, a New York si sentiva quasi solo ed esclusivamente disco music. Vendeva tantissimo. E comunque gli italiani la ballano ancora. Talk about it, talk about it, talk about it, talk. Funky Town, Lips Incorporated, and Got to Leave Somebody, Sister Sledge. Hai visto la disco music? Perché è successo? Perché va dall'elettronica al rhythm blues, prende un po' tutti, cara Alessandra. Però tu hai detto, gli italiani la ballano ancora, ok, la balliamo, ma qualcuno dei nostri italiani ci crede ancora? Ma ci credono la grandissima, cara Alessandra, tanto è vero che questi due dischi in classifica nel 1980 vanno fortissimi. Ci ritroviamo in alto mare. Loredana Bertè, io non so che darei. Alan Sorrenti che è passato da questi dischi esoterici che faceva all'inizio alla disco music. Guarda, all'epoca a livello musicale, cara Alessandra, è stato un vero e proprio terremoto. Comunque Alan Sorrenti per me è sempre una grande sorpresa. Ma cambia sempre Alessandra. Però Franco, il 23 novembre del 1980 alle ore 19.34 la terra trema davvero in Campania e in Basilicata. L'entità del sisma non viene subito capita. I primi telegiornali parlano di una scossa di terremoto in Campania, ma soltanto a notte inoltrata e la mattina successiva si comincia a comprendere la gravità del terremoto in Irpinia. Un vero e proprio disastro. Il 26 novembre il giornale di Napoli, Il Mattino, esce col famosissimo "Fate presto" per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla. E il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, va in visita nelle zone colpite e pronuncia questo discorso. Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Questo che ho potuto constatare che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione, di sepolti vivi. E i superstiti, presi di rabbia, mi dicevano: ma noi non abbiamo gli attrezzi necessari per poter salvare questi nostri congiunti, liberarli dalle macerie. La cifra dei morti, oggi la conosciamo, è davvero impressionante. Quasi 3.000 persone persero la vita sotto le macerie. Il discorso di Pertini provoca la rimozione del prefetto di Avellino e le dimissioni, poi respinte, del ministro dell'Interno Rognoni. Oggi, oltre 35 anni dopo il terremoto in Irpinia, lo sappiamo, la tragedia si è ripetuta da Amatrice alle 3.36 dello scorso 24 agosto. E speriamo che nella gestione della tragedia e della ricostruzione non si continuino a ripetere gli errori del passato. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e io sono Franco Schipani, ciao. E stiamo raccontando il 1980 attraverso la musica e la storia, appunto. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia. C'è tutto un po'. Amico, Renato Zero, e c'è tutto un mondo intorno in Mattia Bazar. Allora, Franco, 1980 non solo disco. Però mi chiedevo, ma qualcuno un po' più fuori, un po' più originale c'è? Assolutamente sì, Alessandro, non penserai mica che tutti quanti si fossero in un certo punto messi a fare soltanto la disco. No. E infatti il rock regna ancora sovrano in certe parti delle classifiche e ce la provano questi due brani. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. La mia banda suona il rock, Ivano Fossati e Stella Stai, Umberto Tozzi. Franco, rock un po' pop però, eh? Poco rock, eh sì. Poco pop. Un po' pop. Vabbè, non so le Zeppelin, i Rolling Stones, però insomma accontentiamoci perché sono due brani veramente belli. Ci accontentiamo, Franco. Accontentiamoci. Invece nell'estate del 1980 rimane nella storia una delle tragedie che è diventata anche uno dei grandi misteri italiani ed è la strage di Ustica. Sono le voci dalle torri di avvistamento. È il 27 giugno, quando all'altezza dell'isola di Ustica precipita in mare un DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo. I morti sono 81. Nonostante le inchieste, le indagini, i processi, le cause e le modalità del disastro non sono mai state chiarite. Nel gennaio 2007, nel corso del programma Rai Baobab, una rivelazione arriva dal presidente del consiglio dell'epoca, Francesco Cossiga. Per quanto riguarda Ustica, io credo che sia stato un attentato fallito da parte di un aereo delle potenze NATO, né italiano né americano, ad un aereo che si riteneva portarsi il colonnello Gheddafi. La realtà è che il colonnello Gheddafi doveva recarsi in Jugoslavia, ma il nostro servizio segreto militare, il CISMI, guidato dal generale Santovito, lo avvertì che poteva essere oggetto di un attentato. Due anni dopo, nel 2009, Cossiga conferma la tesi e precisa che quel missile fu sparato da un caccia francese. Ma Ustica resta una ferita ancora aperta. Nel 1991 è uscito quel bel film, Franco, Il muro di gomma di Marco Risi. Poi, Franco, restando ancora nell'estate del 1980, sabato 2 agosto, nella sala di aspetto della stazione di Bologna, gremita di persone in partenza per le vacanze, esplode una bomba. 85 morti è il bilancio della strage di Bologna, la più grave nel nostro paese in tempo di pace. Uno dei sopravvissuti ricorda quel drammatico momento. Io sono sopravvissuta. Io sono stata fortunata, mi dicono. Credo di esserlo stata. Io vorrei poter voltare pagina e trovare la serenità e le certezze che avevo prima di rimanere sepolto in quel cumulo di macerie. Ma per questo ci vorrebbe anche che chi ha ideato e compiuto la strage si assuma le proprie responsabilità. Sì, un altro dei grandi misteri sui quali poi hanno fatto diversi film, cara Alessandra, ricorderete. Per esempio, Franco, sicuramente hai un titolo, almeno uno. Ma guarda, c'è quello di Placido, che è appunto romanzo criminale, quello famoso, e poi La linea gialla di Marrese, con la regia di Conversano e Grignaffini, che senti, è del 2015. Che è del 2000, ti vedo preparato. Senti, Franco, oggi però io voglio essere un po' disco, magari anche un po' rock, così ti faccio contento. Non mai come te. Però per essere disco e rock, insomma, in Inghilterra, patria dei Beatles, dei Rolling Stones, che disco era? Cara Alessandra, o cucini questa minestra o balli fuori dalla finestra. Thank you. bucks barreling down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Borsa del Credito.it, il modo migliore per far crescere i tuoi risparmi. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori, qui con me che ride c'è Franco Schipani. Ciao Alessandra, ciao. Ciao Franco, siamo nel 1980 e Franco, che cosa abbiamo sentito, ascoltato prima della pausa pubblicitaria e cosa stiamo sentendo adesso? Prima della pausa c'erano i Queen con Another One Bites the Dust e questo in sottofondo è Paul McCartney con Coming Up. Che mi ricorda, purtroppo, che nel 1980, esattamente l'8 dicembre, alle 22:51 a New York veniva assassinato John Lennon, un avvenimento che veramente turbò la città in un modo incredibile. Perché lui tu eri già lì a New York? Ero già lì ed ero a neanche un chilometro da casa sua, al Dakota, che è sul Central Park West. Sono corso subito lì, avevo delle telecamere, ho registrato un servizio per la nostra televisione, ma non sapevo come dare la notizia, quindi ho chiamato Gianni Minà di notte, lui alle 4 del mattino, immagina, svegli una a casa, non è col telefonino, cioè ci voleva il cavo all'epoca. Dico: Gianni, lui mi fa: che c'è, Franco, che c'è? No, scusa, ti volevo dire che hanno appena ucciso John Lennon. Aspetta, aspetta un momento. Prende carta e penna, scrive delle cose, va in radio a Via Siago e dà l'annuncio. Comunque, un brutto colpo per tutti quanti noi. Comunque, vogliamo passare da un inglese all'altro. Passiamo. Gli altri inglesi sono questi che ascoltiamo in sottofondo. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Another Brick in the Wall, part 2, seconda parte, i Pink Floyd. Vedi come fanno ballare, fanno muovere non soltanto i piedi, ma anche la testa. Ma Alessandra, soprattutto la testa, Franco, no? Assolutamente. Soprattutto la testa. E chi invece faceva muovere testa, corpo, piedi, e chi più ne ha più ne metta, sono, beh, ascoltate. I'm not the kind of girl. The Tide is High, Blondie, ed anche Blondie con Call Me and Baby I Love You, dei Ramones. Questi in sottofondo sono i Ramones, Alessandra. E beh? Beh, tu ti ricordi i Ramones? A un certo punto hanno fatto anche il pezzo melodico. Adesso ti voglio fare però una domanda. Dimmi tutto. Call Me Blondie. Ma lo vedi quanto ti piace dire Blondie? Blondie. A te piace da pazzi. Ma tu sai perché Blondie si chiama Blondie? Lo me sai l'hai perché? Detto, me l'hai raccontato. Vogliamo adesso non so che anno ero. No, no, però ridillo. Non sapevo, per strada, non sapevano che nome mettere alla band. Lei camminava per strada e quelli che lavorano, sanno, i tombini, quelli con i cappelli di plastica che fanno il lavoro in corso, e lei passa e fa: ehi, Blondie! Ho detto: mazza, che bel nome, prendiamo il nome per la band. Blondie. Blondie. Allora, però te, nel tuo immaginario è il massimo, una band con una bionda, Blondie. Pensa che avevano... Per te non c'è di più. E infatti eri pazzo di Patti Pravo. Bravo. Lo vedi? Lo vedi lo che vedi? Sei preparata? Ho studiato. Lo vedi che Ho sei studiato. Preparata? Call Me Blondie, colonna sonora del film, beh, questo dovresti saperlo. No, vabbè, Franco, questo è un colpo basso. Richard Gere, American Gigolo. Ah, sì? Ma sì, Giorgio Moroder, che era il re della disco music all'epoca, italianissimo. Lo ovviamente. È ancora? Abbastanza. A secondo te? Sì, anche per secondo me, un po', me comunque sì. Sì, è un genio, diciamolo, sì, è un sì. Genio. Ecco, la chiamò e disse: mi serve una colonna sonora, e uscì questo brano che la rese famosa in tutto il mondo. Perché all'epoca c'era o il CBGB, dove c'era Blondie e Ramones, mm-hmm. oppure c'era lo studio 54. Ecco, Blondie era l'unica che poteva andare sia al CBGB che allo studio 54. Quindi, per chi non l'avesse capito, Franco Schipani è pazzo di Blondie. Comunque mi sembra che succeda di tutto a New York in quel periodo. Sta succedendo anche questo. Don't stand so close to me, message in the bottle. The Police, cara Alessandra. I Police, siamo arrivati ai Police. Siamo arrivati ai Police. Però che... prima o poi me la devi mettere. Quale? Every Breath. Vabbè, dopo te la metto. Bravo, perché grazie, comunque grazie. Loro sì, sì, sì. Sono stati lanciati al CBGB. Anche questo ti piace un sacco dirlo. CBGB. Sono stati lanciati lì. Pensa che loro, arrivando da Londra, avevano scoperto questa piccola caffetteria che era accanto appunto al CBGB sulla Bowery. Andavano, si sedevano, prendevano un caffè, costava 5 centesimi. E hanno scoperto che ogni volta che tu finivi il caffè, veniva la cameriera e automaticamente te lo riempiva un'altra volta, senza farti pagare di più. Beh. Stavano sempre sono lì. Sono rimasti comunque proprio. Voglio dire che con quello che costa adesso tutti. Il caffè In America $4.50 me ne devi dare 10 litri. Sì, ma oggi è Starbucks, non era la caffetteria della... Hai ragione, capito? Le multinazionali hanno colpito ancora. Comunque facevano il famoso... facevano reggae, ma non erano i soli a fare reggae. Bob Marley, could you be loved? Puoi essere amata, Alessandra? No, io no. No, io non voglio. Che domande. Tu, Franco? Ah, non vedo l'ora, sì. Ah, quanto sei cinico. Sta diventando troppo romano, eh? Anche più di me. Comunque, Franco, nel 1980, come ve lo stiamo raccontando, succedono moltissime cose. E a raccontarle, proprio nel 1980, le notizie di tutto il mondo, il primo giugno, nasce la CNN. Never before has television news had the immediacy, the thoroughness that it does now. Introducing the cable news network. Sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando il tycoon Ted Turner presenta al mondo la CNN, il primo canale all news della storia, fondata da lui ad Atlanta e che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Oltre ad essere il primo canale di all news, la CNN raggiunge anche un altro primato storico, ma nel 1991 con la trasmissione in diretta dell'inizio di un conflitto militare e nello specifico la guerra del Golfo in Iraq. Grazie a una parabola satellitare fissata sul tetto di un hotel di Baghdad, l'inviato Peter Arnett commenta le immagini dell'attacco lanciato dall'esercito americano. È un bel cambiamento, Franco. E proprio in questo 1980 invece la CNN racconta molte moltissime cose, come quando il 4 novembre il repubblicano Ronald Reagan è eletto nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Qui a New York i seggi elettorali si sono aperti alle 6 del mattino. Abbiamo già un risultato, ma è più uno scherzo che altro. Il primo risultato è quello di Dixonville Notch, una frazione del New Hampshire. 24 elettori, in tutto 17 voti a favore di Reagan, 3 per Carter, 2 per Anderson, 1 per il libertario Clark, una scheda bianca. Non è nemmeno molto significativo perché soltanto una volta i 24, 25, 26, a seconda degli anni, elettori di Dixonville Notch hanno indovinato il presidente che poi è stato eletto. Era un servizio di Antonello Marescalchi nel giorno delle elezioni, lo ricordiamo, il 4 novembre del 1980. E sempre quell'anno scoppia la guerra Iran-Iraq. Preoccupazione in tutto il mondo per gli sviluppi del conflitto tra Iran e Iraq che da uno scontro di confine rischia di passare a una guerra totale. Sono in gioco la sicurezza dei pozzi petroliferi e la pace nel Medio Oriente. Con il bombardamento di Baghdad inizia la guerra Iran-Iraq, che durerà 8 anni fino al 1988, causando 1,5 milioni di morti. Lo sai, Alessandra, che quando è nata CNN c'era stato un battaggio pubblicitario incredibile, quindi c'era questa grossa attesa, tutti quanti volevamo vedere questo nuovo canale, l'abbiamo visto, ci siamo guardati e ci siamo detti: Madonna, ma questo è un pazzo, questo Ted Turner, figurati, un programma, una stazione televisiva che fa soltanto dei giornali, ma io mi lievito accuratamente il pomeriggio, figurati, mi metto davanti e la dice: no, questa cosa non funzionerà mai. E invece Franco ha un po' funzionato e lui non era un pazzo, ma un visionario. Succede con i pazzi, perché il confine è sempre un po' labile. Ah, dillo a me. Ecco appunto, Franco, ma tu sei pazzo o visionario? Ma io sicuramente un pazzo, non visionario. Secondo me immagina... tu sei tutte e due, Franco. Sì, ma più pazzo, sì, sì. Perché immagino a un certo punto mollo l'Italia e mi vado a trasferire senza parlare una parola d'inglese negli Stati Uniti, immagina. Oh, più pazzo Frankie, di così. L'epopea di Franco, ma che con la, sa... la, li... ma... la valigia di cartone a New York da ma solo. Ma che ne sai tu con tutti i tuoi aperitivi, punti, apericena, risto pizza. No, guarda, Franco, io risto pizza no. Assolutamente. No. Quindi non sai neanche che è il giro della morte a New York tu. Non ho capito il link tra risto pizza e il giro della morte, ma voglio sapere cos'è. O si muore alla pericena oppure si muore a New York con il giro della morte. No, la sera noi ci svegliamo alle 4, nel cappuccino era alle 5 e quarto di pomeriggio, capito? Si usciva, si tornava alle 8 del mattino il giorno dopo, perché c'era il club, poi c'era l'after hour e poi chiaramente l'after hour che chiudeva, che apriva alle 9 del mattino. Posso essere provinciale? Yes, please. Cioè in pratica sono i nostri cornetti con la crema di mezzanotte. Brava, però po' anticipati perché c'era il fuso orario. Ho comunque capito mentre tutto. Voi eravate qui a fare le cose che fate sempre, ecco che cosa vi siete persi delle classifiche americane nel 1980. Michael Jackson, Rock With You, ve lo siete perso qui in Italia nel 1980, non era in classifica, Alessandra? Franco, noi ce lo siamo perso, però tu incredibilmente ti sei perso Sanremo, e allora te lo racconto io. Per favore, anelo. Anelli? Se anelli, Franco, non posso che esaudire i tuoi desideri. Rai, presente con la radio per le prime due serate, serata finale in TV, presentano Roberto Benigni e Claudio Cecchetto, aiutati da Olimpia Carrisi. Come sempre, non manca lo scandalo a Sanremo, e protagonista è Benigni, col suo monologo sull'amore libero e un epiteto sul Papa che alza un bel polverone, sentite. Allora si poteva fare l'amore solo sposati e quando si volevano dei figli. Allora due si sposavano, dice quanti figli vogliamo? Due. Bene, si fa l'amore una volta a 25 anni, una volta a 45, chi si è visto si è visto. È così. Allora però, ora il nostro Voitilaccione se ne è accorto e allora ha detto è l'amore... libero, libero amore. Grandi scandali e risate con Benigni, quindi a Sanremo, mi vuoi far capire, Alessandra. Ma la vera novità di questo 1980 mi ricorda un po' la storia di quello che dice quest'anno vince lui, quest'anno vince lui, non vince mai. E invece nel 1980 finalmente vince lui. Mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare di noi, solo noi. E dopo tanto tuonar piove, Toto Cotugno con Solo Noi vince a Sanremo. Sei felice? Oh, tanto, tanto. Bella soddisfazione però per lui, eh? Franco, nell'estate del 1980, dal 19 luglio al 3 agosto, ci sono le Olimpiadi di Mosca e la Guerra Fredda entra nello sport. Perché l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel gennaio dell'80 aveva scatenato la reazione degli Stati Uniti, che decidono infatti di boicottare le Olimpiadi, trascinandosi dietro altre 65 nazioni, tra cui Germania Ovest, Canada, Giappone e Cina, mentre altri paesi del blocco occidentale partecipano ai giochi, ma senza esporre le bandiere durante la cerimonia di apertura. E naturalmente, tu capisci, Franco, 65 in meno, l'Unione Sovietica fa incetta. Di medaglie ne colleziona ben 195 con 80 ori. Però aspetta, Franco, perché per l'Italia comunque quella del 1980 è una grande Olimpiadi, soprattutto per questa vittoria. Ecco, buono l'avvio, parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea, è al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera, ha vinto Franco, ha vinto Pietro Mennea, trionfa nei 200 metri, il velocista barlettano bissa l'exploit di Berruti a Roma 60, superando di soli 2 centesimi di secondo Alan Wells e chiudendo il cerchio che lo aveva già visto trionfare agli europei. Come sono andata? È andata benissimo, è molto emozionante questa cosa radiofonica della un bel momento, non no? Lo vedi, però te lo immagini, lui che corre, arriva, ce la va, questo, cioè il telecronista che urla, che fai, mi rifai? No, ma è bello, lo volevi fare anche è tu? È molto emozionante. È un bel momento, prende. Come festeggi, dai Franco, festeggialo. E noi festeggiamo così. Can throw out all the blues and hit the city lights. Upside Down, Diana Ross and Give Me the Night, George Benson. Vedi Alessandra quanto sono belle le cose semplici, quanta classe ci può essere in due brani così facili ma così belli. Beh, vero? Belli, Upside Down è bellissimo. Comunque c'è un altro vento in arrivo, cara Alessandra, nel 1980. Vi faccio sentire qualcosa che è nata all'epoca, però nella versione del 2011. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai, non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Vasco Rossi, non l'hai mica capito. Ti voglio bene. Ti voglio bene, grazie Alessandra, anch'io ti voglio tanto bene. Comunque, questo pezzo all'epoca non è che ha avuto questo grandissimo successo. Nessuno si aspettava che Vasco durasse tanto e facesse questo successo. All'epoca veramente non se lo filava quasi nessuno, Alessandra. Ecco, e invece il 14 ottobre del 1980 è impossibile non filarsi la marcia dei 40.000, il momento di più grande scontro sindacale in Italia. La Fiat annuncia di voler licenziare oltre 14.000 operai del settore auto. Il 29 settembre la Fiat annuncia la messa in cassa integrazione a zero ore per 23.000 lavoratori ed è sciopero a oltranza. Ma poi a Torino si consuma la spaccatura più grande. 40.000 colletti bianchi, gli impiegati, sfilano per chiedere la riapertura delle fabbriche e riprendere il lavoro all'interno degli impianti. Dopo la marcia dei 40.000, i sindacati pongono fine allo sciopero e siglano un accordo con i vertici dell'azienda. Alla CGIL c'è Luciano Lama, alla Fiat Cesare Romiti. La Fiat deve capire che contro questo suo disegno trova schierato non soltanto la maestranza delle sue fabbriche, ma tutto il mondo del lavoro. In quei momenti bisognava far capire al sindacato che noi eravamo determinati, decisi ad andare fino in fondo. Il più combattivo era sempre Lama, il quale mi venne incontro e mi disse: dottor Romiti, allora noi domani andiamo a Torino, presentiamo i risultati della chiusura della vertenza. La prego, scriva lei il verbale di chiusura. No, dico, perché devo scriverlo io? Lo scriviamo insieme, lo vediamo. No, dice, questa è la sconfitta. Intanto a Palermo la mafia uccide ancora il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, fratello del nostro presidente della Repubblica, esce di casa con la moglie, Irma Chiassese, e con i figli per andare a messa, quando un killer si avvicina al finestrino della sua 132 e inizia a sparare. Mattarella muore mezz'ora dopo il suo arrivo all'ospedale. Non aveva la scorta, perché la rifiutava sempre nei giorni festivi. Questo è il ricordo di Sergio Mattarella. Io abito di fronte la casa in cui era Piersanti. Sono stato chiamato da mio nipote, da suo figlio, che mi diceva di scendere immediatamente. Sono sceso, l'ho portato al pronto soccorso. Mi fermo qui. Piersanti aveva come obiettivo una buona e rigorosa amministrazione regionale, che fosse efficiente, come lui era solito dire, con le carte in regola. A Milano invece sono le brigate comuniste 28 marzo, guidate da Marco Barbone, a uccidere il giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi. E un episodio che ha molto turbato le coscienze all'epoca è stata la liberazione del reo confesso dell'omicidio di Tobagi, Marco Barbone appunto, 22enne, della Milano Bene, in applicazione alla legge sui pentiti. A sparare al giornalista sono Mario Marano e Marco Barbone, ed è quest'ultimo a dargli il colpo di grazia. Lo raccontano loro stessi in aula. La figura è senza dubbio più rappresentativa, anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice: spara, spara. Ed esplodo 3 colpi in rapida successione. Tubbaggi ha un momento di sbandamento, va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Ed è quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo. Ma per la lotta al terrorismo è anche un anno di svolta. Infatti vengono arrestati i brigatisti Rocco Micaletto e Patrizio Peci, che diventa il primo pentito di terrorismo. No, perché mi guardi così? Help, please. Un momento di quiete, magari un po' più tranquillo. Non si ah, può, vuoi dire un momento, momento di... Sì, un momento come di... Dire, un momento di... Un momento di... Ma tu dicevi un momento romantico. Sì, ah, non mi veniva la parola, scusa. Non ti veniva? Allora Franco, mi volevi forse raccontare che in questa 1980 esce questo filmetto francese senza pretese che è Il tempo delle mele e che diventa un film generazionale con le zuccherose reality che suona a tutte le feste. Io sono rimasto al laureato con la signora Robinson sul letto che si leva il collanza. No, su dai, aggiungiamo la signora Robinson nel Pantheon di Franco insieme a Rolling Stones questo... e Patti Pravo, e Patti Pravo Blondi. E Blondi. Però questo 1980 è un anno anche di lutti per il cinema, perché muore Alfred Hitchcock, naturalmente pioniere del thriller psicologico, mago dei montaggi, narcisista, attore non protagonista di tutti i suoi film. Ma invece voglio raccontarti che è un anno molto importante anche per l'uscita in libreria di un libro incredibile, ed è un esordio. Incredibile. Ed è Il nome della rosa di Umberto Eco. Why we don't talk anymore? Perché non parliamo più, Alessandra? Questo era Cliff Richard. Senti, piace? Franco. Franco. Ale. Ti piace Franco? Ti piace Ale? C'è Chiappini in regia che è molto, molto, molto arrabbiato e dice chiudi. E allora noi volgiamo al termine di questo 1980. Volgiamo pure. Siamo poetici, Franco. Vai. Volgiamo al termine e lo facciamo con un successo dell'anno, ma riproposto in una nuova versione, scelta per noi, come sempre, da lei, da Antonella Migliaccio. Yeah! Yeah! E allora chiudiamo con un grande successo di Ivano Fossati, La mia banda suona il rock, ma cantata da Laura Pausini. Ciao da Alessandra Fiori e... Ciao da Franco Schipani, ci vediamo nel 1981, la settimana prossima. Quindi, ciao, venerdì tutti qui. Ciao.